briciole, su che andiamo. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brecco, brecco. Adesso, adesso. Hola, hola, hola. Stava chiamando. Attenzione amico, se ascolti l'isola della Sardegna, città di Sassari, boh, non c'è più. Stava chiamando, stava rispondendo. Comunque propagazione ce n'è, perché questo è anche il rumore di propagazione. Sì, già lo so, non ti preoccupare. Non mi preoccupo io. Ce ne sono 8, che modo ce ne sono? Pici, non rispondo. Ma ti sei allontanato dal microfono? No, stavo parlando qualcosa, provando in PMR se rispondevano quelli della gesta. Perché sempre parlavo con me tutti i giorni, mattina e sera, oggi strano. E evidentemente gli ho detto di no. Chi? Con chi parli? Io con chi parlo secondo te? Con infermieri. Con infermieri. Ma tu mi non mi puoi entrare in chili. Se stanno facendo roba di emergenza non ci puoi entrare. Parlo con gli infermieri, con gli OS, sto parlando io, hai capito? Ma gli OS perché cosa lo usano oggi a me? Per parlare da un po' all'altro, il discorso è quello. Dentro l'ospedale lo usano, non l'hai mai visto. Cosa ospedale? Quello ospedale mi vuoi chiamare, quello è un obiettivo, ci sono molti pochi di Valento. E ce n'è una che si chiama Paola. A me non lo so. Cosa lo chiamo? Paola, ci sei? Vediamo se risponde. Paola? No, non mi avrei risposto. Tranquillo. E magari il turno di mattina, ma già c'è. Perché di solito quando parlo con loro, capito, la mattina. Mi vedo a vivere, mi viene. Cioè con l'obiettorio, papiti, chi sei macca, Bruni? E vabbè, parlo con l'obiettorio, quello che è, chi se ne fosse, si può anche parlare. Non sembra vero. Hai capito? Sono per compagnia. Ovvio che non ti entri qualche spirito tramite etere e ti arriva a casa tua. Tramite cappettere. Etere, cappettere. Uia, popoli, ho la gole. Lui, c'è un tappo uno. Uia. Cosa ha detto? Pomponi o bu... Magone! Ho capito, avanti amico! Magone! Questo è un magone! Guarda che ti sento talmente basso che non capisco la fanculo di quello che stai dicendo, la verità. Quindi, mettiti una tavola alta, così non ti sento ti posso rispondere. Chi è là? Chi è là? Ma io presentati! Oi già, dimmi che c'ho la picchiriola alta, non c'ho l'antenna. Ciao Manuela. Ciao Manuela. Ciao Manuela. Sì? Manuele, non Manuela. Capito, Dimmi che c'ho Manuela al culo. E vai, vai! Hai visto, però bene, che ti fanno schiattare, hai visto, che le bugie si scoprono subito. Vai, entrato e si è avviato. Cosa? Ho detto, Manuele, è entrato e si è avviato. Se ne è fuggito. E me sono accorto. Attenzione, cicomone. Ciu, diceva quella. Tony, questa radio amplificata è. Ciata. Perché adesso l'ha scambiata per una sciapoletta. Dovrebbe non dire cazzata, io da. Scambiata per una sciapoletta. Sei tu che l'hai scambiata per una sciapoletta, la mia. Il discorso è diverso. Tony, è la mia amplificata, ecco. Sì, e io come sto uscendo invece? Questo usando una saponetta. Tu si sente che c'è il microfono normale. Sento che c'è il microfono normale. Aspetta un attimo. Adesso ci mette il muto sul microfono. Adesso ci mette questa delta, io lo so. Mette il muto sul microfono. Dai, dove finito sei, ma non vede. Ecco qua, questo è questa delta. Con il muto sul microfono. Amplifica non è così molto mi ha detto. Non amplifica. Ci mancherebbe. Ho detto non amplifica molto. No, a me mi è sembrato più di sì invece, è strano. Quindi, aspetta, e adesso quella un po' si amplifica. Non è a livelli mini, dai. Mi sono abbassato il watt da 50 a 30, penso che va di meglio. Antonè, stiamo parlando di potenza di microfono, non di watt in uscita. Ah, va bene, ok, dai, ok. E adesso, va bene adesso, ho detto po' alto. No, per me già va bene, ma non è forte come la mia. Allora già va bene, visto, adesso non è tra i macchini. Ma non è forte come la mia, Antonè, quello volevo dirti. Cazzo, mi sto uscendo come... Ora mi stavo uscendo per la vita. La mia è una number one. Gloria. Non ci credere. Ma vuoi mettere tu un cosciore vicino a soletta e fai da bravo. Ma dove li ha quella Emanuele? Ma dipende sempre dallo sugar, dal modello. Il mio è il primo modello, quello vecchio vecchio. Perché ci sono degli sugar che non escono, tipo quello di Franco, non esce forte come quello. Lo so, questo è il primo tipo, quello è uscito dopo, quello di Franco. Non c'è infatti la capsula che è quadrata, il mio deve essere rotondo. Eia. Quello sta bene qua, mi affianco al Galaxy. Ui. È visto, vabbè. Io sono sicuro, se lo metti là e si basso me, ci vuole lungo la comana mia. Ma quasi di zelli. E la timbrica della modulazione c'entra molto, dai. C'entra, ma tu con la tua timbrica ce lo alzi, o ce li comprendi nuda, e poi parli un po' in fretta. Ce lo abbassi, si capisce, ma ce lo alzi o si comprendi nuda. Io posso alzarlo e parlarlo più chiaro e calmo, guardami. 1, 2, 3, prova di modulazione, cambio così e piano la modulazione. Così già va bene, ma tu non ce la fai a parlare così. Ti devi sforzare, invece io ce l'ho di natura. Io lo posso alzare quanto voglio e non mi sovrabbondo con le parole. Ah, la natura c'ha lui. Naturale, come Dio mi ha fatto. Bravo. Io invece mi sono modificato. Cavagava e cavagava. Ah, stamattina ha fatto l'elettrocardiogramma, tutto qui, video anche al cuore, tutto perfetto già. Dunque, la pastiglia devo sempre prenderla. La batteria? La pastiglia. Ah, ho capito, la batteria. Non mai passo a ributtare. Avanza di rinvaria. No, scherzato. Vabbè, la pastiglia ci vuole, la prendo anch'io la pastiglia per la pressione. Perché se no mi sale, capito? Per regolarizzarla la prendo anch'io. No, io prendo la pastiglia per il cuore, non mi sale. Cardiaspirina. No, non mi sale, per il cuore. Ah, e anche la cardiaspirina per il cuore. Vabbè, comunque, interessante che non abbi nulla e è tutto a posto, meglio usci. Gianni, la cardiaspirina non è per il cuore, è per... diciamo non farti venire ictus e queste robe qua, infarti eccetera, serve per farti diventare il sangue è liquido. Esatto, beh, infatti non ti prendono perché c'è il cuore che non va bene, scusa, sarebbe il cuore. La cardiaspirina la prendeva anche mio padre perché soffriva di angina pectorum, si sono guidati malissimo. Angina petto, se no angina pectorum. Si beve. Cosa ci vuole a dirgli così invece che rispondere come le risposte? Adesso mettono le difese. Ecco, fai così, bravo, fai così. Faccio l'avvocato di Vorzina. D'accordo. Oh yeah. Avanti, Tony. Andiamo alla terra in faccia. Prima la faccia in terra. Non è tolgo un ragno, comunque da un ragno. Allughinante, adesso allughinante. Io te l'appoggio. Io te la metto, te la fingo e te la spingo. Grazie, non c'è problema. Sei diventata anche gay adesso, Anche gay, no, gay no, mai. Antone, tu hai trovato al mese? Sì. Io me lo c'ho il mese. Ho detto, entro di frequenza una volta al mese. No, perché già lo sai che io entro sempre. Non è che entro una volta al mese, già lo sai. Sto facendo la documentazione per me e per Simona, già lo sai anche tu. Finite tutta la documentazione, io sono a posto. E siccome non ti ho più sentito questi giorni. Lo so. Ma ti ho anche telefonato, se ti ricordi. L'altra volta, quindi a un certo punto ho dovuto abbandonare un secondo un po' per fare le documentazioni, fotocopie, non sai come fanno lì quando tu vai per fare la visita, hai capito, per la pensione, già l'hai fatta anche tu, non è che l'ho fatta solo io. La visita dove? La visita lì a Rizzetto. Logica. Rizzetto è stato per il diabete io. Tony, a parte gli scherzi, poi l'avevi fatto cambiare discorso, il permesso per la pesca. E quando lo facevo? Io devo scendere a Porto Torres il 20, devo fare la visita oculistica, ma che me l'hanno fatta lì a Porto Torres, e quando vado me la faccio alla capitaneria. E allora andiamo insieme, così lo faccio anch'io. Eia, non c'è problema. Così almeno poi al ritorno guidi tu, perché mi devono mettere la truppina negli occhi, se no poi non ci vedo. A proposito, se continua a piovere così, Gianni, a me mi sa che a picca rimango qua, mi metto le canne fuori dal cancello e prende bici. Certo, perché un mese sta piovendo. Tu ci ha fatto la carica, era tutta una grande oggi, quindi è casino. Ah, vero. Vabbè che io sono uscito, ho detto vado a Vittari perché me l'ho dimenticato i pomodori, dovevo farmi le fettine alla pizzaiola. Mi sono dimenticato di comprare i pomodori, ho fatto tutta la spesa, vabbè ci vado a piedi, tanto se sono i pomodori. Quando era lì, guarda, si sentono questi turi, dalla parte di Piazza Mona, di quella zona lì, che Tony Adro, e dove amava mi butti. E invece sono uscito e non stava piovendo, dopo 5 minuti che sono tornato a casa ha cominciato il mareato. Intanto mattinata ha fatto un po' di acqua qua, ma non vedo il viso, Antonio, l'ha detto Antonio, ora sono a Rugole Fantuzzi. No, quello è stato bello la verità, se volete passare qui non c'è problema, adesso io me ne vado al bar, bevo la birra, poi quando scendo il fulmine salgo a casa, così a me lo carico le... come si chiama? Guardate, posso dire, carico tutto, me non pago niente dalla luce, cioè, manco il banco, ma ti pago, quindi figurati. Scusa, ma fai prima a prendere la birra dello spin, metti in frigo e te la bevi a parlato baracchino, fresca. Ne vado alla Kobe che devo andare, anzi da Carrefour devo andare, preso testa, vabbè. Adesso vediamo se c'è tempo, si va, se no va a far culo a un certo punto, me lo prendi un paio e basta. Comunque voglio sapere se fate gli scherzi, mi ascolti bene? Sì, sempre con le orecchie. Ascolta, da come era una volta, questa è la verità, da come era una volta, aspetta, come lo sono adesso, ha cambiato qualcosa? Ma io sento molto rumore di ventolina di alimentatore. Beh, brutto buco. È più chiaro, da prima, da adesso è più chiaro. Se c'è un brutto buco, ciao Luca, è barbato. Come cammini e mi fa? Senti, Pini. Luca, ci tocchiamo da Ponte Nuovo. Facciamo un giro. Chi doveva via le pene a Fede Ferro? Ecco Luca. Ehi, ehi. Cazzo, te la più vendi, offendeva. Merda, ha scritto una persona che una c'è stata una tirata luce, ma c'è dai, uno schifo. Qua è tutto ragazzo, non sapevo se buttare la canna. Cazzo, un casino al 45, ma cazzo fa la modula di io, capito? Un po' che la Macedonia, non si comprende nulla, fa male. È che io parlo veloce. Ma adesso tu c'hai l'apparecchio modificato? No, è mio, 2009. 2009. No, ma quello che ci avevi l'altro giorno non era modificato. Ehi, ce l'ho, sì, perché... Così, te lo sto chiedendo. Sì, è lì. E c'ha dei problemi da risolvere. Ah. Quindi Gianni, martedì prossimo praticamente tu. Il 20 devo andare, il 20, sì. Martedì prossimo. Sì, dove c'è la polizia, ce l'è presente. Sì. Devo andare lì, mi mettono la truppina, alle 8 devo essere lì. Mi mettono la truppina e mi fanno la visita fundus oculi. L'ho fatto anch'io quello lì a 10. E poi ho guidato mia figlia di torno. Perché ti appanna la vista. Comunque se ti metti gli occhiali da sole un po' ci vedi. L'altra volta non mi volevano fare andare via. Ho detto, ma è venuto qualcuno a comprare? Ho detto, no, sono solo. No, lei non può guidare, non si può muovere. Chiami qualcuno perché da qua non si muove, se no. Dice Giulio almeno 4 ore, così mi aiuta a me. È un casino, si appalla la vista. Io mi sono addormentato e mi ha finito a guidare, quindi. E allora Luca? Allora, Tony. Adesso venerdì, sabato e domenica sono lì punti al lavoro. Siamo allo stand venerdì mattina. C'è una festa di punti. Già, se ti vuoi fare un salto, vieni a trovarmi. Ci sono. So che ci sono. Come si dice? Mi sa fino agli anche il corpo, non lo so, musica, di tutto di più. Ci sono anche tua azienda, sì, hai ragione, ho visto il cartellone. Ma da quando inizia questa roba? 3 giorni dura. Venerdì, sabato e domenica, così è. Capa. E so che ci sono anche cantanti, cose, sì. L'ho visto su... E in che stand sì, sempre Paninaro? Siamo appesi, vogliono dormire. Sì, vabbè. Anche Bombolino lavora. No. Cavagava. Oh, vabbè, là. E adesso ti specializzi in quello, ti fai ammaccare la tua col tuo e ti vai di là. No, questo come proprio mi insegni. dire se continuo il mio lavoro, quello che faccio, riparazione di computer e chi si vive di qua. Che poi è un lavoro più sicuro. Le panini poi si può fare secondo tempo. Ehi, panini guadagni un bel, non ti critichi, guadagni poco. Cazzo di guadagni, se mi se ne fa di fare pure 4-5 miliardi una sera. Lo so. Anche dallo zucchero filato si guadagna. E tu ce l'hai la macchietta già? Sì che ce l'ho. Ah, mi pare che volevo una banca e se volevo vedere il zucchero filato. Hai lo zucchero, te lo porto io. Ah, lo zucchero costa un euro dallo spin, ma con un pacco di zucchero ne fai 70-75. A 1,50 euro l'uno, gatto di vanno. Io te lo porto in 10 kg, io. A voi da divano di zucchero filato. Ma quella macchietta che ho io non è professionale, è piccola, là. Sì, li fa, ma non è come quella professionale che scalda subito e li fa subito, capito? Cosa bisogna aspettare che scaldi, tutto quanto. È un omaggio che hanno dato a Elena una volta che ha comprato della roba, gli hanno regalato questa macchinetta. E scappato. Vado dentro lo zucchero, poi fa girare con la macchettina, in giro ti fa lo zucchero filato, già va bene. Antonello, ci sia, se lo faccio avere la birra. Sono qua, sto mangiando un panino. Dimmi tutto. Sì, eccola qua. Ah, il mondo dice il Freddy, fa la birra. Non ho capito, mi sto facendo il fondo per la birra. Sì. Adesso fa poco pago la caffè, questa la vado a 9 centesimi e me ne prendo 2 o 3. Quanto costano? 99 centesimi. 9 centesimi. 99 centesimi. Ma tu volti. Voglio la 66. Non mi piace la Tuborg a me, è l'ansia, io quella che bevo io è tedesca ed è non filtrata ed è buonissima e costa da l'Italy, mi pare che non venga nemmeno 90 centesimi. Non so, io l'ho vista così stamattina, 99 centesimi la Tuborg. Adesso mi sto mangiando un panino, poi vado lì, ne prendo un paio, me ne prendo e me la bevo. Ma non te ne bevi tutte e tre, no? Non me ne bevo, che cosa tre? Tutte e tre, tutti e dieci. Che si può tre pari, Antonello, ma cosa lascia, vedi Antonello? Appunto, sto mangiando, scusa, devo ingerire, no? Mi sono affogare, no? Luca, a te che birra ti piace? Ah, io bevo l'inchiusa, piace un sacco a me. Ma anche la... però dopo l'inchiusa mi fa mal di testa, la Tuborg. A me piaceva la Breger, non la fanno più purtroppo. La inchiusa rimane a Ranziga. No, a me la inchiusa piace. Quando è fresca non è Ranziga. Anche la Drera è buona, a me piace, non piace tutti e due, Drera e Chinusa mi piacciono tutti e due, però adesso stavo prendendo una, adesso la sto più prendendo, che è tedesca ed è un bel buona, rimane scura come birra, ed è non filtrata, è di quella non filtrata, sembra leggera ma ti manda a KO. Mi ha detto che la Drera non le fanno più, io l'ho chiesto, ha detto ma non ce n'entra ragazzi, se no non la farò più da molto. La Drera. Boh, non lo so, non ti so dire nulla perché in mezzo non ci sono più, quindi non te lo so dire, però mi sembra strano, boh. Chiediamo all'esperto che Antonello lo sa, Antonello? Dimmi, mi servono 15 casse di birra, mi fa bene un tempo, e io ci stai? Quante inizia? 10 casse di birra a Kenwood. 15 casse di birra e cambia un Kenwood. Ah, quindi ci sono 10 casse di birra e tu mi dai un Kenwood? 15 casse di birra. Quindi fatti i conti quando sono. Tu fammi un Kenwood. E che Kenwood è? 140. Cioè io 10 casse di birra o 13 casse, come tira? E mi dai il Kenwood? 15, ho detto, 15. Più la gente giudizi, poi utilizzava 15, fra poco arriva a 20. E che mira voi ce la gira? La tubo. La tubo, di cattubo ce la caccia. Sta 99 centesimi la bottiglia, quindi fate i conti. Vuoi la mira per un mese? Vabbè, per un mese, cioè, quindi a un certo punto va bene, no? Mi sembra una cosa equa. Vuoi più lo scelto io, vuoi? Non ho capito. Ascolta, tenete un Kenwood, che un negozio si tiene la birra. Va bene, però mi metto via che la da bene, ma ho capito. Ah, appunto sì. Ho già, dopo hai detto la birra ti fa un doppio 140. No, io non lo voglio rovinare, Antonello, le voglio bene. Lo so che mi vuole bene, sto scherzando. Mi sto mangiando un panino, figurati tu. Adesso, vado a mettere la... da Carrefour. Non dopo 9 centesimi c'è il coso. L'offerta poi si vedrà. Al tempo tu non è che mi chiamano 99 centesimi a coso, a bottiglia. Ti mancherebbe. Ciccio, se non mi dici quindi si cassi, tutti i 15 vincimi. Antone, ma prima bevuto avevi, prima di andare a bere adesso, bevuto o avevi birra? No, perché? Cioè, prima di andare a comprarti questa qua, l'avevi già bevuta. Prima di pigliare la tubo, cioè, mi provava, sì. Io pigliavo la guerra, poi pigliavo di più e poi ho usato la tubo. La verità è che la tubo è molto meglio perché c'ha meno zuccheri, capito? Antonè, deve fare le pli. Nei zuccheri ce li hanno tutte le cose alcoliche, perché lo zucchero praticamente si trasforma in alcol. Sì, ma questo c'è meno zuccheri, te lo sto dicendo io. La migliore che c'è è molto più leggera. E tu pensa che anche il pane e la pasta c'hanno lo zucchero? Tutto, tutto, tutto. Anche il tacco della birra c'ha lo zucchero. Che pensiero c'ha lo zucchero per questo? Se gli ho dimenticato intorno con la fragola. Luca. Dica, sono qua, dimmi. Ah, io invece abbiamo Antonello, compra le 15 casse di birra. Ho capito. Compra le 15 casse di birra turbo che lui ti dà il 140. Quante casse? 15 casse di birra turbo. Ma io frutti. E poco se ti ubriaconi. Mi ha? Gomone mi. Ah, il giuggiolo. Ah, briciola. Ah, ci gomone. Merway. Ehi, Tori. Come ti arrivo a te così? Eh? Come ti arrivo? L'ombre. No, la radio? La radio è buona. E voi mi dico di abbassare che tu non forte. Vabbè, da me sì, va bene, perché c'è un attimino. A quello che c'è l'antenna sul tetto, un'altra ricezione c'ha. Ma sul tetto ce l'hai? No, io no. Ce l'hai sempre sul balcone? È sempre lì. 9-10, 9-5, perfetto. Sempre lì l'antenna, usa l'antenna sul tetto, ma non si passa neanche. Io forse che te avrei fatto una cosa, un pallocino gonfiato a elio, attaccato l'antenna, la sera lo tiri su e poi quando finito modulare lo tiri giù. Ma se si è messo l'antenna sul tetto qua che si avrà tutto. No, l'unica è così, la tiri volante, la fai sollevare con un pallocino gonfiato a elio e ti solleva su. Ascolta un attimino che sto ascoltando una cosa. Antonello vai a comprare la birra, a pure a Carrefour, la quello che c'è giù dopo il cimitero. Non sono a casa, sono andando in panina adesso. Adesso tra poco vado alla Carrefour, mi piglio la birra, quattro bottiglie, un euro. Mi ero risparmiato, a ciò faccio andare al bar, 3,50, ma sei macchine. Nel video 4 sono a posto, e me lo pago in due giorni. Ma vai a Carrefour City o vai a Carrefour, Carrefour che è dopo Santa Maria? Carrefour quello che c'è a cosa? Qui a Carbonati. Dove c'è la copertina prima? Ah, Carrefour City. Non ho capito. Lui, la pallina, lo fa io. Manuele? Ehi, mi ascolti, sì. Sì, compri la birra a Toledo, sta offrendo. Chi li compra 15 casse di birra a turno, lui gli dà 140 kg. 140 kg a lui? Sì, ma devi comprare 15 casse di birra. 15 casse? Eia. Si possono anche prendere, l'importante è che sia buona questa 140. Antonello? A posto, 15 casse di birra. Giù un peso, va la bocca viata, ho già visto. Sta mangiando, sta facendo il fondo. Ah. Sto mangiando, aspetta, sto macchina, così quando vai ti facciamo compagnia. Devo fare il piatto, già, devo fare il piatto dalla batteria, passarlo dentro, ci vuole un fusibile, non è a fare fusibile. Ma lui ce l'hai la tua per la macchina? Sì, ce l'ho, ma è da vedere perché sono quelle, è la vittatura, ma ci vuole il basamento, non so come ti funziona. Ne ho una roba nuova, imbustata, te la regalo. Ma per la macchina? Gatta. Ma non ne voglio mettere con la base magnetica. Non è base magnetica? Ma voglio, se è piccola, ma grande. È piccola? Non ne voglio pure io, anche le mani. Ma voglio mettere al posto della, della, della radio. È piccola? E poi passare il cavo dalla batteria alla macchina per collegarlo. Gatta. Ma è fede se prega, un casino. Non ci vuole nulla, Manuel. Cosa ci vuole? Devo solo mettere la pruga di vestimenti per il salvatore saldare PL, perché ancora è usata a cercare un nuovo nuovo. Perché io di solito vado dalle zone di Fiume Santo, sempre, poco a poco. Li prende bene lì. Oh, cazzo, insomma, domenica ero dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera lì. È una baralluia, invece se parli magari ti passa il tempo. E se non vedi su non si passa il tempo. Da dove è lui? Quando passi te lo do, te lo immagina, torno, va dove? Ma quella la famosa tu, la vettatura. Allora non la usa, capito? Io sono sempre intanto in macchina, poi la vado a battere, non può farlo. L'hai mai messa, per forza? Mai messa? No, non è voglia, dai. E che con la vettura sono malacchina, che poi non c'è nessuno. Ti fanno di ex quando non vedi nessuno, è peccato. Ma... vedi tu, Manuè, che a me mi faceva un bel di compagnia, quando andavo a Porto Ottore, se andate in ritorno c'era sempre gente. Sì, lo so, ma a modo di quei 10 minuti e per basta. Qua io sono il terzo ratto, qua voglio, sto cercando quella radio che apre e fa da monito per guardarmi firme e male varie. Preferisco più quello. Ah, quelle, ho capito, quelle tacce scritte. Bravo, che ti collego al telefono e ti guardi il film la notte, qualche programma, qualcosa. Io quella ce l'ho nuova di Zecca, ancora scatolata, l'ho ordinata, e più la telecamera, più quello c'era, il microfono, un sacco di roba. Ma va bene anche per la porta quella attacco, cioè? No, so se ci sta, perché questa è grande, mi sa se 10 centimetri in altezza, Ma no, va bene, deve essere quanto la pace dello stereo che c'è tu della macchina. No, rimane fuori, quello lì mica ti va dentro, quello lì rimane aperto, è come la macchina mia. C'è la plancia, se ci sta, io avevo modificato la Ford Focus per mettere quello lì. Già, io sto dicendo, ho capito che rimane fuori, e poi qui schiaccia e rimane dentro, e vedi solo il frontalino, ma ci sono quelle radio che la plancia rimane più larga. Ah, ho capito, tu stai dicendo quelle che sono retrate, che rientrano dentro. Quelle lì sto cercando io, che rimane solo il frontalino dopo, davanti quando lo spegne. Ah, ho capito, allora mi sa una cosa, dammi da guardare, l'ho visto quelle lì, e che c'è il frontalino, si raddrizza e vede tutto, e costano sulle 300-400 euro quello lì. Ah, ma su Facebook costava 69 euro, della Lyon. Ah, boh, io non l'ho vista su Facebook così poco. 69 euro, tu guarda su Facebook, ci saremo fatti. E come si chiama? Radio con frontalino estraibile. Tu guarda su, metti stereo per macchina lì, ho 7 pollici, tira tutte le schermate. Rio si chiama così. Lyon. Te chiccio. Cioè, facci lei. Niente, ti manca, bu. Preferisco più quello che ti fa più compagnia, capito? Tu, perché ti guardi i film, ti guardi, ti... verso la mezzanotte l'una, ragazzi, cosa c'hai? Allora che non vede nessuno. Invece lì ti accendi la televisione, ti colleghi. E vabbè, scusa. aspetto, se lo vuoi te me lo regalo, ma non c'è nulla. Come vuoi fare? Adesso quando cerco su internet questa radio Rio. Ma cosa? La radio li regali? No, lì. Ah. Ma lì c'è una cuore. Ah? Se mi fai dire, io ne vuoi fa pagarsi ora. E ma, allora la popolazione è variata, c'è gente pazza. Ma le siete tu, Manuè? Sì, le sento. Che secondo gente potuta c'è propagazione, te lo immagini? Cazzo, cioè, ho cambiato anche la batteria della macchina, pulito l'iniettore, avanti, avanti. Quanti pollici era, Manuè? Radio Rio? 7 pollici, guarda, sedio per macchina... si fa da TV tutto quanto e c'ha Play Store, Bluetooth e tutto quanto, c'ha tutto, anche la cosa della telecamera. Il primo pezzo che ho trovato qui è quello che ho messo io fisso, è dei 42 euro, un fratello estraibile, eccolo qua, 132, ma non è. No, no, non è quello, guarda, adesso guarda, aspetta un attimo e guarda. Poi c'è 117, fotolino estraibile, poi c'è 149, 139, tutti in brisive, 109. Capagava e capagava. Vattene al cinema tu, Uzzurro. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza. L'Italia, Nord Sardegna, fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Breakover. Attenta, Buzzurra, Buzzurra, se l'è copiato la Sardegna. Ehi. Ehi, ha. Fai che te la mandato su WhatsApp. Aspetta, adesso lo giochiamo. Ma che apri il link, guarda tu, ti dà tutta la... Ma ci raga un pareggio, ma da chiudere il visore. No, è bella per macchina, per me va bene, perché ti ripeto, io faccio cantonamenti, va bene giù il visore. Ehi, ma non si può guardare camminando, vero? No, camminando no, cazzo camminando, ma vai di anche la parte del visore. Ehi, vabbè, uno c'ha la batte, uno c'ha la non hai due, io. No, il cazzo, se ti trova qualche... già che stanno girando anche molto, se ti trova così ti te ne avete una patente. Dallo specchietto laterale, una volta c'era lo stereo a manetta e c'era la polizia a cazzo sparacca sulla Budibudi con le sirene cazzo spiegate, io non ho sentito nulla, meno male che ho guardato dallo specchietto, ho visto la polizia che toglieva la paletta a furi, se no non me ne era bizzardo. Ma noi adesso non me lo dai. Come non te lo dai? Devi cliccare nel coso azzurro. A solito 94,99 euro. Quanto? 94,99 euro. Questa sì, però ce n'è un'altra a 69 euro, però questa è migliore. Questa qui è più bella, l'altra lo stesso, ha le stesse funzioni, però la marca più del cavolo. Vedi, te la punisci, ti va il televisore. Ah, ce l'ho con una nuova, una scatola, l'ho comprata io quella lì, la mia quando mi c'era rotta. Ci ho dato uno scappellotto e si è rotto il video, si è rotto, adesso vedi a luce, sono delicati. E quindi niente, l'ho comprata, mi è arrivata al tempo di 3 giorni e ce l'ho ancora dentro ormai, da quella conservata, scatolata, con videocamera, tutto, microfono. Perché non te la piatti, così almeno quando vai a fare le visite che vai 3 ore prima, almeno ti fa il televisore. Stamattina ho avuto fortuna, ti spiego. Sono partito verso le 7, ho trovato parcheggio a 7:30, perfetto. L'appuntamento alle 10, no, alle 9:20. Ok, fatto tutto quanto, con la visita esco, mi prendo un bel caffè che c'è al bar all'angolo, lì via Rockefeller. Adesso per il caffè e ti trovo Luigi che mi c'è la macchina mia e il verbale mi sto facendo. E qua è tutto il vieto. Ma non lo sapevo, mi scusate. Purtroppo ero a fare visita, mi stavo sanando, mi sono il caffè per riprendere, mi sono via. Vabbè, vadi, ce la faccio. Mi hai avuto il cane, invece ne ho trovato uno che ammetto, lui faccia quello che deve fare, io faccio il mio lavoro, così male. Hai trovato lo stronzo? Purtroppo, sì. E vabbè, dove dove sei andato a fare la visita? Via Rockefeller, numero 7A. Ah, è quel palazzo dove ce ne sono tanti. Non lo so, lui è fiamo terra, però è lungo il palattoio, fa il giro del palazzo sotto. Sì, ci sono ginecologi, sono tutti gli specialisti, ortopedico, ginecologo, ce ne sono un bel. Io sono stato cardiologo. Come si chiamava? Burfalchi, Burmometto più. No, io vado sempre da Bandiera, dottor Bandiera, quello che c'è via Marras in fondo in fondo. Allora, io questo qua ora un qualche cupo che non ho dato. Comunque metto, anziché chiamare il cupo la prossima volta, mi chiami a me e io dico se c'è posto, cioè fare la richiesta alla sua dottoressa, viene qua, così non va fuori una parte all'altra. Mi ha fatto anche il video al cuore, già a posto. Cosa ti ha fatto? L'ecografia al cuore e più la vista elettrocardiogramma. Ah, mi sentiva tic tic tic tic tic il battito del cuore. Ho visto il muscolo del cuore, tutum tutum tutum, capita la gente, mamma mia. Quello lì proprio ti legge se è perfetto, capito? Tutte le imperfezioni ti legge. Ecco, ma ti metto il gel, inizio a vedere Luca, ci sei ancora? Antonello, si va a vedere la birra, che cosa? Chiede già Ce l'aveva già in mente di farlo, quindi non lo fermi. È vero, vabbè che l'avevo avuto anche prima, quindi non c'è problema. Manuel, è già andato. No, siamo rimasti noi e basta. I superstiti. I più belli. I superstiti siamo. C'è ancora l'accesso, cazzo, non riesco manco a parlare. Ciao. Oi. Ah, io ci ho fatto bene. Tanto. Tocca anche io, te la roba. Adesso metto col 23 canale in vendita. Aspetta. Ah, però faccio uno scherzo. Lo metto un regalo. Cosa ti ho già regalato? Ma quale 23 canali tu? Come si chiama? C'è un nome strano. Jimmy 800. Quello bello. C'è quello di Dix, Rix, rosso, verde, cosa bianco. Ma è venito me. E quanto lo metti quello? Quello lo metto anche 50 euro. Funziona bene, è perfetto. Lo metto un regalo, così tutti quanti mi contattano e dico, purtroppo si è arrivato tardi, già tanto. Tu devi dire, no, guarda, ne un altro comunque lo saranno 50 euro, uguale. Dice sì, uno lo regala e l'altro lo vendi, ma non attaccano. Ma quello che ho regalato era difettoso, invece questo è perfetto. Ho detto uno, stavo cercando un Galaxy, e ho detto guarda, dopo il mio 300 euro, è nuovo nuovo. Mi dice del il Galaxy non fare la cazzata di dare col microfono. Che poi chiedi il loro con l'originale, il microfono suo originale, mica lo sciure non si tocca. Ma poi tu non hai apparecchi per fare dello sciure, quindi devi dare a me. C'ho sempre che ho parlato a canale, vince il canale. Vabbè, ma hai sprecato, dai. Tu mi dai il cobra, io provo lo sciure. Cosa ti do il cobra? Sei tu. Quello lì, 450 euro costa. Ah, no. No, tu lo metti qua e attacco lo sciure. Il cobra è bello, ma lo attacco poco, Tony. Io uso sempre i sciuriti, il Galaxy, questo, ma lo attacco poco quello lì. Io ti dirò la verità. Mi trovo troppo bene con il Galaxy. Anche io, te lo sto dicendo, io è quello che preferisco il Galaxy. Da tutto, smitre grandi, ti dà tutto, perfetto, capito? No. E invece certe smitre sono dei benissimi piccoli, strani da guardarle, cioè questo qua, ormai non conosco la memoria, è troppo droga, non ce n'è. È inutile che ne dicano che è un barrasone e poi c'ha un apparecchio piccolo dentro, non me ne ha fatti nulla, ma anche lui che vuole la sua parte. A me mi piace anche come estetica, capito? Cappa, poi attacca la spina 220 e tutto a posto, qua sei via a Piero Longa. Infatti, anche quello è vero. E se poi parte l'alimentatore perché c'ha problemi di alimentazione il Galaxy, a un certo punto poi ti vibra, ti fa, basta che gli metti un altro alimentatore di cui di switching e sei a posto. Ma comunque, a me non sembra bene, ho preso quel tipo di Cagliari, me l'ha mandato e un OM, guarda, perfetto, nuovo. Sì, qualche cosa già gliel'ha fatta, perché se mi regoli la rotella da dietro è perché l'ha toccato. Il mio è nuovo, il mio è stato solo riparato, i cosi finali li hanno cambiato e basta, però il resto non è stato mai toccato. Vabbè, questo è un coso dell'eco, dovrebbe essere comunque, basta che l'ha messo. Vabbè. Andava. E visto Alessio stava lamentando che ha trovato il 140 senza viti, non so cosa, lui tutto senza viti con la colonnina attaccata con silicone. Ah, quello 140 che c'è lui? Sì. Alessio che gli era dato una persona, gli era pagato due volte, però era perfetto. Ah, non lo so chi gliel'abbia dato, però ha detto lui che l'ha aperto perché non andava bene, è sparito il radio. No, no, io so che è un'altra persona che gli apparati le tiene bene, tra l'altro, e le sta anche vendendo quando gli capita. Vabbè, ma l'avrà toccato lui, magari, io già ne so. Chi è lui che ha sempre già fuggito? Quando mai c'è la colonia attaccata al silicone? Ma... E lui che fa queste cose? Allora, tu mi sono andato in più poi. Adesso gli vuole mettere il bip bitonale, non so, documenti, del King, cazzo, ma dimmi. Che okay, c'è tutto l'acqua. Un giorno ci ha fatto vedere la bocca liata, va via. E ha detto che gli spariva la radio, che non c'era massa, l'ha dovuto aprire, non so cosa l'ha fatto. Adesso va bene. Lui è un bravo tecnico. Rinomato, a Sassari almeno rinomato. Stai tranquillo che se tu riporti un baracchino che non funziona, lui ti fa diventare un televisore. Cavagava, vabbè, dai. Ma si arrangia in qualche cosa, dai. Attaccare il microfono, sì. Vabbè. E attaccare il microfono, più o meno ci sono buoni tutti. L'ho fatto io qua, l'ho fatto. Vabbè. No, questo qui già va bene, l'ho preso da una persona affidata, me l'hanno raccomandato perché questo qui ci compra molto, non le è mai arrivato una parecchia a seconda mano, messo male. Addirittura. Ui, come ho qua trovato una cosa che devo dare a una persona, ha detto che non l'ho trovata, adesso l'ho trovata, fugando l'ho trovata. Uno spinotto, femmina. Cosa devi fare? Una persona ha prestato questo, poi quando ho ritrovato tutto quanto la roba sua, me lo sono trovato adesso, che io non lo trovo più, adesso trovando sotto il mobile, l'ho trovato, così lo chiamo e glielo do. Cosa gli hai fatto? Una prunga? Una prunga, cioè, praticamente, di franco. Ma l'hai fatta tu? No, l'ha fatta lui. C'è un altro filo nero che entra dentro con tutte le fascettine piccole piccole e viene casino pure. La mano. Che ne so, comunque. L'ho trovato, glielo do. È suo, è un tipo. Ebbene. Vabbè, Tony, che ne so, 4-20, fra un po' ci porta a casa, che mi sta guardando, più vicino a me, che sto modulando e lui vicino a me si è coccolato sopra al ginocchio. Poverino, più devo fare bisognini, che comunque questo tempo non si capisce nulla, per me l'estate è questo, Ma io già ce l'ho il posto per andare sotto gli alberi, già del riparo, non so come acqua. Già c'è il posto, sotto il porticato. Adesso da me, l'ombrellino con tipo bretelle, lui già il paese, anche lui c'è l'ombrellino, adesso bagna. Ma hai usato ombrelli in vita mia, sempre cappucci di giubbotti impermeabili. Anch'io, io ho l'ombrello piccolino in macchina, l'ho usato, mi dà fastidio. No, io ho uno grande in macchina che sembra un ombrellone di quelli del mare, che praticamente l'avevo preso dai punti della Esso, è enorme, cazzo, copre tre persone. Allora si vede conmigo senza ombrello, io c'è posso anche per lì, si mette a sotto. Ti sto dicendo che è un bel manno, solo che non lo uso mai, ce l'ho così, per sport in macchina. Ho capito. Andò bene. L'ho usato solo una volta che stavamo tornando da... come si chiama? Da Uri, ci siamo fermati perché stava piovendo e ci ho messo a fare i lumaconi. Allora già capito, due buste di lumaconi in pochi minuti abbiamo fatto. Anche 7 alla volta l'hai provato, mai visto lumaconi così. Io già conosco i posti lumaconi, però giustamente non ne passa la fantasia. perché sono presto, si va, le chiede che dascio, ui. Le vedo pure, le stanno prendendo, poi dico, ma che me lo faccio fare, ando per le pozio. Io una volta sono andato lì a Platamona, prima del bivio, per andare a Porto Torres e Sorso lì, e dove ci sono quei cusi, quei bungalow. E praticamente sono andato lì e sono andato di notte con la pila. Quando sono arrivati gli altri, io gli avevo fatto già due buste di lumache, però non lumaccone. Io una volta qui già, quando abitavo l'altra casa, una mattina presto ho preso una retina di patate, mi sono uscito alle 6 di Manzano, in campagna qua stesso, ho fatto una retina di patate, quelle grandi, pieno di cioccolata rossa, con cui ne manco una. Ma adesso sono parecchio che non ci vado, ma prima con mio padre ci andavo a Cucuy. C'aveva un posto mio padre andando alla Landriga lì, in capo della Landriga, era tutto Cucuy lì. E c'erano le piante di piccolini, li trovavo e sotto le piante di piccolini la ciappavi un bel. Io sono posto Marcari, però dico il punto con esattezza. E poi c'è un'altra strada da fare. Anche noi andavamo in bicicletta tutti e due lì, andavamo in bicicletta e poi parcheggiavamo le biciclette e andavamo a prendere i cucuri. E più di una volta alzando le pietre, perché mio padre alzava anche le pietre e a volte trovava le munzite, no? E alzando una pietra c'era una bici attorcigliata, si è fatta dritta, si è occupato un rai. A Zunchini non dice nulla. Zunchini? Andando dopo Bancali. E Fiume? Dopo Bancali. Calma. Sì, e lì andavo un amico mio lì a pescare. Ho messo l'altro microfono perché mi pesa troppo e mi faccio male la mano. E te l'ho detto, sta bene qua, perché qua c'è il ripiano, si può mettere e via. Sempre il solito sì. Grazie. Non ti convincono. Vabbè, dai. E cosa ti stavo dicendo, Tony? E lì a Zunchini andavo un amico mio di Bancali, andavo a pescare lì e pescavano con la batteria. E se le trovano con cacchiacci non si può pescare con la batteria. E già lo so, pilavano l'anguilla di tutti. E poi usano quell'erba tipo finocchio selvaggio, quelle veleno stesso. E le ammazzano. Cavolo! Lo mettevo in un sacchetto, però pensato, lo buttavo al bagno, legato, la rete dall'altra parte, dalla parte per l'altra parte del fiume, e tutti i pesci, si bloccavano i chili e pigliava. Questo era un napoletano, ho detto, so, ci hanno detto, mi hanno detto la rete, mi sono chiamato già la polizia. Oh, mi scusi, ho detto, cazzo, perché dove a fare, cazzo, mi chiudi il rio, ma ti ha scherzato. Perché tu in fiume andavi a pescare tu? Certo, io ero licenza, 7 anni durava. Ah, io mai avuto quella del fiume, ma si paga 70 euro mi pare, no? Ma non mi ricordo, io pagavo allora 6-7 mila anche con la lira. No, io non c'ho manco pratica in fiume, non so manco come si dovrebbe pescare, non so niente. La cazzata più grande del mondo. Io mettevo il pisino con la turco, nell'amo tiravo, poi lasciavo la campanella e la canna, come fai a pescare in fiume? Nel mare, cioè più o meno così, bombata, e a spinte, già magnete, tira. Ma a fondo? Cappa, e l'apre di carpe, però devi avere il retino grande, perché la carpa di alzo un po' di matana, sennò poi perdi il pezzo. La cosa, il coppo già ce l'ho io, enorme, ce l'ho, non grande, enorme. Sì, la faccio anch'io, però io l'ho usato in un altro modo, per carità, a Cugli della Fogna. Poi che l'ho fatto io alla persona, giù al metro, un casino, e allora ho dovuto pulire tutto quanto, con mascherina, tutta useggetta, buttato profumo, la mamma per carità, un fiasco. Sai che avevo inizio a buttare sempre il gabinetto, capelli, cicche, e si è intasata la tocca, un casino. Perché nel gabinetto si deve buttare solo acqua, basta, non bisogna buttare acqua. A volte lo sai cosa succede? Che molta gente, era successo da noi, al lavoro, svuotando il secchio dalla barentera è sceso anche lo straccio. E a casa di lui. Anche quello è vero. Purtroppo solo a Cartagini cambia da grabbia, se no ne uccidino a Cartagini, che è buon pazza. E ci butti solo quello che fa e l'acqua, ed è fatto, è duro la vita. Da quando gliel'ho detto, gliel'ho pulita, massa, poi da quella volta non c'è più in casino. casa, lì c'è la propria giacchetta e sta tutto, però con tutti quei capelli è un casino, a malucchi, pare a parrucchi, anni e anni. Ma dovrebbero scendere quando tiri la catena, strano. Sì che scendono, hai capito, loro abitano c'è il terrazzo e nel pianerotto, via da casa sua, c'hanno il pozzetto profondo e là, automaticamente va nel pozzetto grande, nel pozzetto grande poi c'ha la pompa di aspirazione che rimanda nel tubo, sale alla parte di scale e va a finire la fogna centrale del corso della strada. E la pompa sommersa, cioè come ce l'ha la luce? Bravo, che trito tutto, però là non tritava più perché c'è troppo il cazzo, infatti vi disonava la sirena, lì c'è anche l'allarme della pompa, se non tira più suona, capito? E poi si intasa anche il galleggiante, si sente di detersivo, di cose, ma carità. Lascia perdere che io più di una volta l'ho pulita anche io, so cosa vuol dire, quella coppa sommersa pesava un trono, finisce anni di braccio. No, lei ha preso quello in acciaio e tiro, sì, detersivo, cose, eccetera, fosfati, è un casino. Comunque, gliel'ho aggiustata e mi ha regalato, la verità, 100 euro mi ha regalato. Ha detto, io ho chiamato con un sacco di persone e tutti sono rifiutati, e te? E tu, le miliardi, sì. E chi mi ragavo? Hai fatto bene. E vabbè, disturbo, il fatto che ti sei imbruttato tutto, ma carità. No, imbruttato no, perché c'era tutta la usa eccetera già, però il fattore è questo, che purtroppo eri in mezzo a un fianco, anche avevo la mascherina, però ho capito. Io oggi che oggi non potrei più farlo, perché con l'operazione che ho avuto, a me, la prima parte a terra, Tony, io dico una cosa, che sono gas quelli lì, perché che se respiri quelli lì, tutto senti male, lo sai? Lo so, guarda che quei sono gas e sono anche infiammabili tra l'altro. Infatti io mi buttavo un bel profumo vicino, io sentivo del profumo con la mascherina, ma ho usato la mascherina con i carbonatipi, non ho usato la mascherina che si usava a battere il Covid, no. Io avevo quella della vita proprio. Ho capito, vabbè. Comunque non lo sai cosa succedeva, praticamente c'era il tombino fuori, no, del magazzino. E cosa succedeva? Che quando si bloccava la pompa sommersa si riempiva d'acqua e andava a finire nel fondo del montacarichi, allagava tutto il montacarichi. Mamma mia, per carità. Pucci, pucci, spiegare da voi. Allora, prima con la pompa sommersa dovevo svuotare e farla scendere nei tombini, che non so così, ma così si spugnava, me la faccio pulire nei tombini, la pompa, e la svuotavo nei tombini, no? Quello del montacarichi. Poi dovevo andare fuori, tirare sulla pompa, pulire il galleggiante e rimetterla a bagno. E allora si è bruciato anche un condensatore, microfrana, perché automaticamente quando il galleggiante è tuo, in su deve aspirare, il motore era bloccato, quindi andava, si è bruciato il condensatore, quindi gliel'ho cambiato, anche quello gliel'ho cambiato, comunque è un lavoraccio, comunque gli ho detto non buttatelo più perché poi vi costano un casino, dovete comprare un'altra pompa, è stato vero, ci ha comprato un'altra pompa, 150 euro con l'acciaio di riserva, un domani che pure se viene più ce la cambia. Ma lo sai cos'è, le donne hanno l'abitudine di buttarci gli assorbenti, anche gli assorbenti si gonfiano e fanno quel lavoro lì, incasano tutto. E quando svoltavo quell'affare lì, io vabbè le prendevo con dei rastrelli, con le cose, mica le toccavo con i mani, però c'erano di tutto, assorbenti, di tutto e di più. No, quello lo buttavo nel cestino, la busa, la cestina non l'ho mai buttato dentro. E dirò, niente, io non ho toccato niente con le mani, sempre col corpo, ma poi l'ho lavato bene, ma resterò lavato. Ho usato anche altri prodotti ed ero pulito per asciugare, grazie a Dio, quel campagna l'ho fatto bene. No, io non lo userei più. Non lo userei più a prendere il pesce, se no da qui. Posso sempre comprare un corpo nuovo e innesco con il tubo che ho qua. Infatti. 50 euro costerà tanto il corpo nuovo. Andò bene, dammi io guardo cosa c'è da masticare, cosa mi mangio, già dicevo, ma ha detto il dottore che non posso, che non devo mangiare più né pane né pizza una volta al mese e purtroppo devo adattarmi alla verdura, andò bene, e agito, ma non è che pure a pure verdure no, che voi fate male, poi c'è pesce, ascolti dottor, forse vado bene, faccio bene io prima a comprarmi il pesce, perché se continuo a comprarmi il pesce io concedo la pensione e mi pare che non ci arrivo anche a fine mese. Infatti, se compri la carne ti dura due o tre volte, se mi dipesce una borsa da bui, non hai più. Infatti, allora, lui parla bene, però, vabbè, comunque, un dottore o un cardiologo in gamba, la verità già, non posso dire niente, quindi mi ha dato una dritta che, anziché chiama il recupero, non lo chiamo più, chiama lui, e così sono la Sassari direttamente, mi ero anche a fare la visita. E perché non lo sapevo, io facevo così, sia per le lastre, sia per fare tutte le visite, chiamo al policlinico direttamente, oppure chiamo quello di via Roma, il radiologo, e mi dice se ci sono posti, capito? E una volta che metto che non c'è, e poi mi faccio un posto che mi serve, che mi devo operare, quindi mi serve questa radiografia, va bene dai, venga domani, mi faccio un posto, vai. Cappa, e faccio anche io così in tardo, ripeto, faccio anche prima, non mi costa nulla. E così faccio anche al policlinico, e dalla dottoressa mi faccio fare l'impegnativo, se non posso, intanto c'ho l'esenzione, quindi non farò niente. Sì, al policlinico facciamo tutte le visite, anche quella a Liuchi, ma non c'era posto, ho chiamato, non c'è posto. E ha detto che adesso devono darlo al CUP per forza, per dargli i posti. C'era il posto, si pagava, mi pare, 30 euro. L'altra volta mi ha fatto pagare 60, questa volta 30, mi ha detto. Se io non posso fare gratis, c'è chi devo pagare. No, ma io ripeto, io non pago nulla e quindi sono tranquillo per quello, e quando mi capita adesso lo posso fare, dovrei fare una vista elettrocardiogramma, faccio così. Non ho mai sei chiamato, se c'è posto, ok, capito, giustamente l'ho chiamato, ma preferisco chiamare più a lui che chiamare il cupo, che mi dice non c'è posto, non c'è posto, non c'è posto, oppure fra due o tre mesi. E poi senti, la mattina ha cercato di prendere la mia, la Sabilli, che mi è venuto l'esaurimento l'altro giorno. Anche a me, idem, come soffra, uguale. Voce guida, premi questo, premi l'altro, deve fare le cose, poi ti dice tre ore la musichetta, poi ti dice devi provare perché non c'è operatore libero. Dopo di tre ore libera la musichetta, non spegnere perché perde la priorità acquisita. Queste tre ore da da che c'è musica, ma che è del centro della legge. E allora io lascio il telefono sul tavolo, vai. Per carità, vabbè dai già, così porti a Sergio Peluccio a fare i suoi bisognini che sono per la 10. E io mangio dalla TV, mi guardo un po' di cose, mi guardo di telegiornale. Ok dai, ci sentiamo, a domani. Ciao Gianni, bocca di quando lo fai e voce da quella parte. Alle principie, ciao ciao. Ciao ciao Tony, poi ci aggiorniamo per quel giorno lì, o andiamo con la tua, andiamo con la mia, la stessa cosa. Non c'è problema, non preoccuparti, ok, va bene. Ciao ciao Tony, ciao. Ciao ciao.